segno della croce, usi il segno della croce, ma usi per legare quello che per te morale, soffocare parole distratte, leggere come capriole. Usa il segno della croce, usa il segno della croce bene, prima di tuffarti e mai per punirti, prima di lanciarti, per disintossicarti, e te lo devo dire, si dice ti amo da impazzire, ti amo da morire, invece fa star bene. Male. Usi per giudicare, ripulire i tuoi errori, costruisci altari, vai a Medjugorje. Usa il segno della croce, usa il segno della croce bene, sbagli e fai qualcosa per recuperare o per egoismo, fa qualcosa di bene e te lo devo dire.